hai portato la maglia anche state a loro. Convocate. Perché? Siamo state convocate anche noi. Convocate grazie mille, grazie. Bene, allora perché? Siamo tutti convocati. Convocati Weekend di Giovanni Capuano e Pierluigi Pardo. Mette rimessa laterale, è finita, quinto pareggio consecutivo in casa per la Roma, l'orgoglio del Parma, ferma la Roma che guadagna sì un punto sul Napoli, ma forse vede scappare via questa sera la Juve se la capolista dovesse vincere sul campo del Cesena. Qualche fischio a fine primo tempo, molti più fischi come logico che sia in questo finale di sentito. 800 24 00 24. Claudia Schiattone, autrice di questa puntata, Valeria Bernardi in regia. Sintesi perfetta del pomeriggio che regala alla Juventus il secondo match point scudetto, il primo sprecato due settimane fa, Roma-Empoli 1-1 sabato sera, poi Udinese-Juventus 0-0, ora Roma-Parma 0-0. Questa sera Cesena-Juventus, con la Juventus che gioca per salire a più 9. Saluto subito Luca Calamai della Gazzetta dello Sport. Ciao Luca. Ciao, buonasera a tutti. Carlo Genta qui con me. Ciao Carlo, Giovanni, ci buonasera. Siamo, è triste da dire, siamo alla vigilia dell'epilogo della lotta a scudetto. Sì, ma è solo una questione di tempo, no? È solo una questione di tempo. La Roma, quarto pareggio casalingo consecutivo. Quinto. Se non vinci con il Parma, però per vincere magari ci vorrebbe anche un attaccante. Oggi abbiamo visto il debutto di Dumbia, del nuovo arrivato, però non è un giocatore d'area, quello d'area ce l'aveva, l'ha dato al Milan, ho già segnato, unica notizia positiva per il Milan. Sì, poi non è semplice arrivare il sabato ed essere scaraventati in una partita così. Luca, tu come hai visto la Roma, cosa ne pensi? Allora, senza un uomo da 20 gol non puoi vincere lo scudetto davanti, cioè la Roma è prigioniera del fantastico sogno di Totti. Giocatore straordinario che adoriamo tutti, ma un giocatore che da solo non può vincere lo scudetto, ma che condiziona anche le scelte di mercato della Roma, perché niente mi leve dalla testa che Destro non abbia trovato la sua piena affermazione a Roma, proprio perché è sempre stato costretto a convivere con questo grande campione che pretende di giocare, e per certi versi anche giustamente, che fa la prima punta e che quindi chiude sostanzialmente la squadra, il posto di squadra, altre prime punte, ma senza un centravanti che ti risolve questo partite con un colpo che prescinde da tutto, non puoi a gioco lungo vincere lo scudetto. Ma era già successo alla Roma quest'anno, era successo anche l'anno scorso, mi ricordo un pareggio contro il Sassuolo, proprio perché la Roma per vincere è costretta, tra virgolette, a giocare bene, ma non puoi giocare bene. Prigioniera della sua atipicità, Luca. Esatto, della necessità di arrivare in porta magari con 10 tocchi, di entrare in porta con pallone, tutto bellissimo, tutto straordinario, tutto emozionante, fa della Roma una squadra che può battere qualsiasi nel momento migliore. Ora Roma è messa malissimo fisicamente, sì, ma nel momento migliore che è il vero tratto probabilmente di questo degli ultimi due mesi, le difficoltà oggi fisiche, non parlo di infortuni, poi parleremo di Inzaghi che invece agli infortuni addebita tutte le sfortune del Milan, però la Roma è una squadra che obiettivamente fa fatica a correre. No, ma anche il Milan, che oggi sono due squadre che hanno dimostrato in maniera chiara che di fronte ad avversari che corrono diventano squadre normali. Mm-hmm. Allora, Parma, permettimi di fare un applauso al Parma. Sì, grande dignità. Grande dignità. Cavolo, è molto facile criticare i giocatori o sottolineare. Questa gente non prende gli stipendi, per carità, non sono minatori, però non prendono gli stipendi, sono rimasti lì quando qualcuno ha scelto di scappare. Chapeau, no? Perché voglio dire, hanno dimostrato con grande orgoglio e grande lealtà sportiva. Però ecco, al di là di questo, sono bastate due squadre ben organizzate che correvano, cioè Parma e Empoli, per mettere in grandissima difficoltà il Milan. Per 25 minuti non ha passato la metà campo perché non aveva gambe e nemmeno uno straccio di gioco. Aspettate che vi faccio sentire a proposito del grande orgoglio, della grande dignità del Parma. Domani vedremo se arriveranno i famosi bonifici. Oggi Manenti ha detto al 90%. Poi ve lo facciamo sentire. Ecco l'architetto di tutto, Roberto Donadoni. Sentiamo le microfoni di Sky. ha quei dubbi sulla regolarità del campionato, no? La risposta dei suoi ragazzi è stata proprio impeccabile in questo senso, perché abbiamo visto senso d'appartenenza, voglia di aiutarsi uno con l'altro, andare a raddoppiare marcature sui talenti della Roma, risposta di alto livello. Questo sì, ma quando si dice così sembra quasi che invece nelle altre partite questo non si sia fatto, e questo sarebbe un'enorme bugia, e quindi, come ho sempre detto, questi sono ragazzi che hanno una dignità importante e cercheranno di fare il loro dovere sempre, anche perché finché la matematica non ci condanna abbiamo il dovere di provarci sempre, e oggi è la dimostrazione, quindi sono contento per loro prima di tutto, e vediamo poi il prossimo cosa ci riserverà. Questo Donadoni, la matematica continua a condannare il Parma, perché sono 10 punti in questo momento, meno 11 dalla zona salvezza, e arriveranno altre penalizzazioni, però oggi è anche il giorno della dignità del Parma. Poi ci sono i destini opposti delle Milano, del calcio, del Milan abbiamo detto. Vorrei un vostro giudizio veloce sull'Inter invece, seconda vittoria consecutiva a Cagliari, ci sarà la prova del 3 che nelle ultime due stagioni è sempre stata fatale. Luca, l'Inter ha iniziato già un percorso nuovo, no? E lo cogli nell'atteggiamento dei giocatori in campo, cioè voglio dire, oggi chi lavora nell'Inter sa che l'anno prossimo si riparte da Mancini, si riparte con un progetto anche importante, perché sono già stati spesi dei soldi. Cioè, se l'Inter è molto indietro, farà fatica secondo me a mettere a posto il campionato, ma sa che la nuova stagione è già cominciata. Il Milan avverte il senso di precarietà, perché vedi poca prospettiva, vedi poco gioco, vedi un allenatore estremamente debole, vedi una società che cerca sostegno, cioè vedi una situazione non chiarissima tra i due direttori generali, due amministratori delegati. Allora credimi, del calcio gli spogliatoi sono uno dei settori dove si coglie tutto, si sente tutto e si capisce tutto, e allora te, guardando i giocatori del Milan e dell'Inter, capisci proprio che siamo di fronte a due realtà in questo momento proprio completamente opposte. Sì, anche se l'Inter ha avuto comunque un andamento adesso, queste due vittorie, ma ha avuto un andamento parecchio altalenante. Sì, è sulle montagne russe. In altalena continua, sarà molto importante. Sì, è vero quello che dici te, però è vero anche che l'Inter tutto sommato è andata a giocarsi un quarto di finale di Coppa Italia al San Paolo e ha perso molto male. Allora lì quelli sono momenti di verifica, no, importanti. Cioè lì probabilmente l'Inter ha capito che non era lontana dal grande calcio, escluso la Juventus, e questo dà un senso di autostima al gruppo, perché poi comunque se li prendi singolarmente sono giocatori di un livello medio alto. Sì, sarà importante prima della prova del 3 di domenica prossima, la prova del 3 che arriverà in Europa League, perché quello può essere un obiettivo per l'Inter, gioca col Celtic. È l'obiettivo, ma non solo per l'Inter. Cioè, se quest'anno l'Italia non vince l'Europa League è colpa nostra, perché abbiamo quattro squadre, non me ne voglia il Torino, abbiamo quattro squadre che possano vincere tutte. Sì, quindi, competitive, anche se questa Roma rischia col Feyenoord, così come in questo momento potrebbe rischiare con chiunque, Luca, questo va anche sì, detto. Però è anche vero che la fine della lotta a scudetto, come avevate giustamente detto voi, perché ormai non ci crede più nessuno. Sì, la può aiutare a concentrarsi. E la Roma è fuori dalla Coppa Italia, cosa le resta? Questo. Ora, sinceramente, la Roma in questo momento sta troppo male. Quindi vuol dire che fisicamente non è buono, ma te mi insegni che nel giro di 15 giorni gli scenari fisici di una squadra cambiano in maniera clamorosa, no? E quindi io sono convinto che ora la Roma piano piano ricomincerà a correre e magari a primavera diventa di nuovo competitiva. Ma insomma, io parlo di valori Inter, Roma, Napoli, Fiorentina, ripeto. Sì, sono valori assoluti che possono essere competitivi in Europa. Con tutti. Luca, con tutti. C'è il traffico, lo facciamo subito, ti chiedo un minuto di pazienza, perché poi è evidente che questa domenica è una parentesi in mezzo a tutto quello che abbiamo raccontato e racconteremo ancora. E allora vi voglio far sentire quello che ha detto oggi Lotito, Gagliani, scusate, su Lotito. Prima però c'è il traffico. Traffico. Un saluto a tutti gli amici di Radio 24, sono Sergio Cosmi e sono orgoglioso di fare un pronostico per Sanremo. Per me vince quella con la barba. Ah, è finito ieri Sanremo. Ah sì? Tutti convocati. Non lo dico al dirigente il mio, lo dico a un dirigente importante del nostro calcio. Una sua reazione, una sua... Io non ho voglia di commentare tutto, mi sento di dire che sono e resto amico di Claudio Lotito. Questo Gagliani oggi 800 24 00 24, oggi hanno preso posizione in maniera dura contro Lotito la Fiorentina, con le parole di Andrea Della Valle. Lo ha fatto la Roma, ma l'aveva già fatto ieri Pallotta. Poi sentiremo Baldissoni, durissimo. Questa mattina la Gazzetta, Luca, che ha fatto il conto e alla fine ha scoperto che in realtà sono tanti che non si pronunciano, sono dalla parte di Lotito. Sì, si contano sulle dita di una mano. Forse quelli che hanno preso posizione contro Lotito. La famosa, no? Minoranza, 3, 4, magari 5, sentiamo stasera la Juventus. Luca? Sì, allora io su questo argomento ovviamente il nostro direttore è stato chiarissimo e mi semplifica la strada, perché io ti dico la verità. Nel momento in cui, io ho una mia teoria, nel momento in cui pensiamo, diciamo, sosteniamo che il calcio è la settima o ottava azienda del paese, nel momento in cui tutti siamo convinti che il calcio comunque ha una visibilità che trasmette un'immagine del paese nel mondo, io credo che in questo momento non me ne importa niente se interviene Gagliani, Cairo, Della Valle, è quasi marginale. Dovrebbe intervenire chi comanda in questo paese, quindi chi rappresenta lo sport ai massimi livelli, in questo caso da una parte il CONI e dall'altra anche il governo, che ha il diritto dovere con le sue rappresentatività, con figure come Del Rio che sono importantissime, di dire basta. Ecco, cioè va staccata la spina, ma la dovrebbe staccare il protagonista, ma il senso della... non c'è più il senso della vergogna in determinate situazioni, no? Nel momento in cui non la stacca il protagonista e non lo stacca una Confindustria del pallone, che mi sembra ormai improponibile a certi livelli, lo dovrebbero staccare a livello superiore, dire basta, perché tutto quello che sta succedendo nella gestione del calcio è fuori dalle regole di un paese civile, e quindi vedrai che saranno solo parole, Luca, vedrai che saranno solo parole, pro contro, però non seguiranno azioni. Ma è così, perché vedi, è sparito il senso della rivolta morale, no? C'è un momento in questo paese comunque in cui uno capisce basta, è finito, non si può andare oltre. In realtà ormai siamo assuefatti al peggio, per cui reagiamo lì per lì di pancia, ma poi questa reazione di pancia non è accompagnata da quella che dovrebbe essere una reazione operativa. Da domani vedremo cosa farà il governo, che ha preannunciato un intervento. Grazie Luca. Ciao, un abbraccio e buona domenica. Ciao, a tutti. Grazie a Luca Calamai, Gazzetta dello Sport. 800 24 00 24, scrivono gli amici da casa, grande prova di Guarin, 7.5, bene in generale tutta l'Inter. Con assi strepitosi, Guarin, non so dire se è più bello il primo con una palla pettinata di sinistro dopo un dribbling a rientrare, o il secondo invece con il destro, non calciando di collo, ne parlavamo prima, quando la prende di collo rischia di rompere i vetri fuori dallo stadio. L'ha piazzata benissimo nel 7, portiere d'Atalanta, magari rivedibile come posizione, però due gol meravigliosi. Sì, Inter che mi sembra stia trovando piano piano anche un'identità tattica, le due punte, Shaqiri dietro le due punte. Oggi non c'era Icardi, che è stato bloccato da un attacco influenzale, c'erano Podolski e Palacio, che ha fatto gol. Sì, gol. In realtà con un rimpallo. Classifica dice che l'Inter è a quota 32 punti, in questo momento il terzo posto dista 10. Ieri Mancini ha detto ancora di credere nella possibilità di qualificarsi alla Champions League direttamente con il terzo posto del campionato. È vero che ieri Inzaghi ha detto il Milan può vincere tutte le 16 partite che ci mancano. Sì, ma le chiacchiere teniamo aperta la finestra almeno per l'Inter. Sì. Le chiacchiere le fanno tutti. Io non terrei aperta quella finestra al momento, anche se chi sta davanti, vedi, riesce a complicarsi la vita, perché stavamo parlando di Napoli a caccia della Roma, invece una va piano, l'altra va pianissimo, o meglio si incarta a Palermo con Benitez, che pare sia andato su tutte le furie, ma poi ne parliamo. Sì, poi ne parliamo. Benitez che oggi secondo me si è anche rasserenato vedendo il pareggio della Roma, che lo tiene anche in corsa per il secondo posto. Ciamancini, microfoni di Sky, magari sentiamolo. Preferiamo non gioire. Vedi che iniziato... curatore di Cardi, dice Luca Marchegiani. Quindi adesso mestizia. Siamo felici, siamo felici, certo, perché comunque Bergamo è un campo molto difficile, e l'Atalanta è un'ottima squadra e non è certo semplice vincere qua, quindi sono felice per la prestazione, anche se oggi come al solito facciamo sempre qualche errore di troppo e ci complichiamo un po' le cose, però poi per il resto sono molto felice. Andiamo nel dettaglio, Andrea Pavel. Ci vuole Mancini per riportare l'Inter a vincere a Bergamo, visto l'ultima vittoria, insomma, c'era sempre Roberto in panchina. No, volevo chiedervi se, visto nell'analisi che è stata fatta, l'Inter ha fatto una gran bella partita, però nel vantaggio ottenuto così rapidamente, se Mancini si aspettava poi nella gestione della partita del giro palla un po' più di tranquillità da parte della squadra. Sì, noi siamo andati un po' in difficoltà dopo l'1-0 per 10 minuti e non capisco perché su quei 2-3 lanci lunghi dell'Atalanta per Piniglia, che è stato bravo, e poi fatto l'1-1 abbiamo ripreso il pallino in mano e abbiamo giocato sempre, quindi insomma non so perché siamo andati così in difficoltà, ecco questo. Questo Mancini dopo la vittoria dell'Inter a Bergamo, sono tanti che stanno scrivendo bella partita Inter che finalmente si è sbloccata secondo tempo, perché il primo Mancini minimizza, dice siamo andati in difficoltà su un paio di lanci da dietro. Verità che l'Atalanta ha avuto anche delle belle occasioni, una, se avrete modo di vederla, di Piniglia, che può finire dritta nella galleria di mai dire gol. Sì, no, certamente l'Atalanta ha giocato un eccellente primo tempo, praticamente l'Inter è partita con l'1-0 sul tabellone, no? Gol di Shaqiri a freddissimo, poi però al secondo tempo onestamente l'Inter si è vista, poi l'Atalanta è anche rimasta in 10 per una sciocca espulsione di Ben Alouane. Sì, e lì la partita è finita. L'Inter era già avanti 2-1, ma l'Atalanta da lì in poi si è sciolta. Parlavamo prima del Napoli. Saluto Antonio Giordano, Corriere dello Sport. Ciao Antonio. Buon pomeriggio a tutti. Ciao Antonio. Ciao ragazzi. Si era serenato oggi un po' Benitez, che mi è stato descritto infuriato ieri negli spogliatoi di Palermo. Ma credo che la notte poi aiuti a sbollire un po' l'ira, anche le riflessioni del giorno dopo. Anche il pareggio della Roma? Ma penso che un aiuto gliel'abbia dato Donadoni. Quindi si starà meglio oggi che ieri sera. Ieri sera stava male, parlava la faccia per lui. Sì, si sono sentiti gli strilli, Antò? Ma no, lui poi non è uno che strilla per farsi sentire, lui sa quello che deve dire. Credo che lei abbia pungolati subito, immediatamente. Tant'è vero che è uscito dopo una quarantina di minuti, in genere lui è immediato nella reazione. Credo non se l'aspettasse, ma non se lo poteva aspettare nessuno. Mi pare che sintetizzando si possa dire che sia stato il più brutto Napoli di Benitez del biennio, neanche l'anno scorso a Bergamo, dove pure finì 3-0, insomma, però in condizioni sicuramente diverse. Ma è abbastanza grave però in un momento così, nel momento in cui tutto ti gira bene, nel momento in cui la Roma si è incartata. Non, al di là della sconfitta, non è un bel segnale il fatto che sia il peggior Napoli in questo momento. No. Poi ripensando alla cosa che dicevi, sarà più tranquillo Benitez. Se una parola si può passare, se l'embargo, non siamo in fascia protetta, però incazzare si può dire. Sì, no? Si può dire. Sì, innervosire, oppure usiamo anche noi un linguaggio ecastico. No, tanto questa settimana abbiamo sdoganato tutto. A proposito, non so se avete letto oggi lo Tito sul Corriere della Sera, come ha definito Andrea Bodi. Un cretino. E non in una telefonata rubata, in uno sfogo, ma in un'intervista al Corriere della Sera. Prego Antonio, torniamo a Benitez. Mi interessa chiamare a Bodi, vorrei sapere che ne pensa. Non pensa benissimo, non l'ha presa bene. E tu pensa che ora, con il senno di poi, ovviamente, il Napoli che ti aspetti poteva stare a 2 punti dalla Roma. Eh sì, è proprio per quello. Cioè, ma ti ripeto, è una questione dell'atteggiamento. Perché... Però per fortuna, diremmo, alla faccia di Lotito c'è un calcio nel quale, insomma, ci sono squadre come il Parma che hanno una dignità e che, seppur condannati, direi tutt'altro che virtualmente, perché insomma qui soltanto molto più di un miracolo, cioè la serie non servono congiunzioni astrali, serve che l'intero calendario scenda in campo per dare una mano al Parma, insomma. Sì, destino del Parma praticamente scritto. Antonio, ma il problema del Napoli, io faccio fatica a pensare sia di approccio, veniva da 7 vittorie nelle ultime 8 partite, non va nemmeno buttato via il bambino con l'acqua sporca, perché altrimenti credo si farebbe un errore. E allora dove è stato il problema? Dov'è il problema? Perché manca sempre quello scatto in più quando è l'ora di cambiare passo, di cambiare orizzonti? Spero di non farmi un nemico, il che Ale Rafael non ci stia seguendo, però il problema del Napoli in questo momento è il portiere. è un problema che indiscutibilmente è vivo dal punto di vista tecnico. Rafal nelle ultime tre partite di campionato ha costato tre gravi errori, nelle prime due circostanze il problema è stato occultato dalla capacità della squadra di rifare la partita e vincerla, e stavolta invece l'hai persa, l'ha condizionata al quarto d'ora del primo tempo. Era una gara che più o meno era sotto il controllo tattico della gestione, sono andato anche a rivedere i dati statistici della partita, che contano e non fino a un certo punto, perché poi 64% di possesso palla comunque hanno un senso. Però poi dopo il Palermo ha fatto molto bene, devo dire, perché hanno fatto i complimenti agli Achini, la partita che voleva. Sì, è una partita che si è squilibrata dopo, quando il Palermo ha avuto campo per giocare, no, e poi ci ha fatto ammirare Dybala, che è un progetto di fuoriclasse assoluto. Peccato che l'anno prossimo non ci sarà più, no? A meno che il Napoli, se ci vuoi regalare la notizia, non abbia qualche speranza di portarsi a casa Dybala, ma la vedo dura. Io vi voglio un sacco di bene, ma se avessi la notizia non la darei al giornale, rischierei il licenziamento. Come si dice dalle mie parti, tengo famiglia, ragazzi. Bravo, bravo, bravo. Ciao, bravo, Antonio, grazie. Ciao. Grazie a voi, buona serata. Antonio Ciao. Giordano, Corriere dello Sport. Ultime battute di Mancini. No, sono finite. Mancini, che bello sorridente. Vabbè, una volta ma sì, ma ha parlato di felicità. L'Inter ha bisogno anche di un po' di antidepressivo. L'antidepressivo è questo. Però lunedì prossimo, Cagliari-Inter, la prova del 3, fatale a Mazzarri per 2 anni. Torniamo subito. Lazar prova addirittura dalla distanza, tiro a tiro, rete, Lazar, papera di Raffaella, e il Palermo in vantaggio. Tutti convocati. Aver invertito la rotta del secondo tempo. C'è Garcia ai microfoni di Sky. Solo nel secondo tempo, non le sembra che sono tante giornate che continuiamo a dire questa cosa, cioè regalato un tempo? Non inizia a diventare, come dire, un problema cronico? Ma può essere, ma c'è solo il futuro che dirà se la Roma può giocare con più continuità, essere più efficace in attacco, perché parliamo di questa cosa oggi. Massimo Moura è stato più tenero. Continua Garcia a dire c'è un problema di continuità, c'è un problema di infortuni probabilmente, e ci sono, perché quest'anno la Roma non sta correndo come l'anno scorso, non sta avendo la stessa continuità anche di formazione che ha avuto l'anno scorso, però di sicuro la situazione è complicata. Alessandro da Milano, 800 24 00 24. Alessandro. Ciao Giovanni, ciao Carlo. Ciao. Eccoci. Da Milano, in questo momento in viaggio. Prego. Volevo fare due considerazioni. Speravo in una resistenza migliore del Roma, perché a questo punto sta cedendo più o meno nello stesso periodo in cui aveva ceduto l'anno scorso con la Super Juve di Antonio Conte. Io sono juventino e mi dispiace molto. Poi noto il cambio di atteggiamento del professor Garcia, che fino a 2 mesi fa faceva, scusate, il pagliaccio e diceva che dovevano vincere tutto. Sì, diciamo che percorreva strade diverse dal punto di vista motivazionale. Dai, Alessandro, che possa passare il turno in Europa League. E poi invece un'altra precisazione: se un'italiana vince l'Europa League, sì, quante italiane complessivamente vanno in Champions? 4. Ne va una in più, perché l'Italia guadagna un posto in Europa League. Grazie Alessandro, sentiamolo ancora Garcia ai microfoni di Sky. Sì, lei usava la parola efficacia, che secondo me è quella più adatta in questo momento, no? La sensazione, guardando le partite della Roma in passato, era quella che comunque prima o poi, anche contro avversari chiusi come è stato il Parma oggi, prima o poi il gol l'avreste fatto. In questa ultima fase della stagione la sensazione è contraria. Cioè, veramente sembra che debba venire fuori l'episodio per sbloccare la partita. Ma anche il momento che vuole questo. Anche è vero che abbiamo giocato con alcuni giocatori che non erano al 100% per differenti motivi. Abbiamo lasciato Pjanic oggi questa mattina a casa. Non sono alibi, degli alibi oggi non abbiamo. Perché anche con questa squadra, anche con giocatori un po' meno al 100% della loro forma, ci deve vincere. E allora non c'è niente altro da dire. Abbiamo sbagliato il risultato soprattutto. Ecco, comprensibile. Sì, si deve vincere perché il Parma, che noi oggi applaudiamo per la sua dignità, aveva perso 18 delle 22 partite precedenti. Torino ne ha presi 7, eccetera, eccetera. E quindi oggi non c'è alibi che tenga. Lorenzo da Firenze. Sì, buonasera. Eccoci. Buonasera. Buonasera. Prego. Ecco, volevo dire, io volevo parlare dell'Inter, no? Sì. Intanto volevo dire a Carlo Genta, se è lì. Sì, qua. So che lui è un fan di De Laurenti, presidente del Napoli. Mi è simpatico. E vorrei sentirlo più spesso alla radio, ultimamente si sente poco. Lo peschiamo presto, sì. Non si preoccupi. Perché io sono un suo fan di quelli, insomma, un suo grande fan. Io volevo dire, a proposito dell'Inter, e voglio dire, secondo me questo Mancini, al di là di tutto, viene un po' sopravvalutato. Non so cosa ne pensate voi, perché Mazzarri sembrava fosse veramente l'ultimo allenatore, insomma, l'ultimo dei raccattati. Ma mi ora, sembra che Mancini, su Mazzarri ci siamo espressi anche, sull'esonero di Mazzarri, anche diversi milioni con Podolski. Sì. Cioè, sì, non tutti i milioni che si pensa, sì. Però Lorenzo, su Mazzarri noi ci siamo ampiamente espressi sui motivi di un esonero, soprattutto ambientali, in tempi non sospetti. Fino a qui i numeri dicono che Mancini ancora viaggia poco sotto la media di Mazzarri. Certo è che a tratti sulle montagne russe, ma qualche segnale di continuità l'Inter sta cominciando a darlo anche con Mancini. Ripeto, sarà importante la prova del 3, che può essere l'Europa League a Glasgow giovedì, può essere lunedì la trasferta di Cagliari, però è la cosa dove l'Inter è mancata in queste due stagioni. Continuità, ma la continuità fa difetto a tutte quante, che non, a tutte quelle che non sono la Juventus, tutte le squadre sotto la Juventus mancano di continuità. Se l'Inter riesce a trovarla, ma ha ragione Calamai, comunque vedi le linee di un progetto, sai che Mancini rimarrà, sai che ci sono comunque giocatori che sono stati presi per il futuro, vedi qualche giocatore rivitalizzato, e in questo è un merito di Mancini, perché Guarin era sparito nelle nebbie, nelle sabbie mobili, no? Quindi qualcosa si vede. Poi Mancini, a differenza di Mazzarri, ha il carisma che arriva dalle vittorie, no? Sì, a differenza di Mazzarri, forse anche a differenza di Pippo Inzaghi. Lo sentiamo, è Pippo sicuro. Inzaghi oggi dopo il pareggio con l'Empoli. Siamo in un periodo un po' così, è complicato, abbiamo tanti infortuni, ogni partita succede di tutto, perché oggi veramente è successo di tutto, non mi ha permesso neanche di fare i cambi, insomma, perdere dopo 30 secondi un giocatore che si rompe il naso è incredibile. Chiaramente era una partita complicata, probabilmente la più difficile delle quattro, l'avevamo detto tutti, l'Empoli mette in difficoltà chiunque. Sono veramente bravi, per cui eravamo stati bravi anche soffrendo, eravamo andati in vantaggio, penso che è stata una partita abbastanza equilibrata, perché non ricordo grandi parate del nostro portiere, neanche del loro. Questa è la spiegazione. Ha detto anche: non si può pensare di dominare l'Empoli a San Siro. Qualcuno sui social ha detto: assomiglia molto all'ultimo Mazzarri. Ti faccio sentire cosa ha detto sui fischi di San Siro. Dà ragione ai tifosi, cioè, fosse stato lei oggi in tribuna, avrebbe fischiato questo Milan, il Milan di oggi, Inzaghi. Ma i tifosi sono come me, vogliono sempre di più, però in questo momento noi dobbiamo rimboccarci le maniche e cercare di trasformare i loro fischi in applausi. È chiaro che il tifoso del Milan è abituato ad altro. Il tifoso del Milan è abituato a qualcosa di diverso, ma secondo me non bisogna nemmeno andare troppo indietro nel tempo. L'anno scorso di questi tempi. Basta andare indietro di una stagione e mezza, voglio dire. Era un'altra storia, però anche le giustificazioni diventano abbastanza patetiche, nel senso che oggi nel secondo tempo l'Empoli ha preso a pallonate il Milan, ma si vedeva chiaramente, andavano al doppio, hanno buona qualità. Li hanno presi a pallonate, il gol dell'Empoli è stata la logica conseguenza di un netto dominio. Sì, anche se poi arriva su un errore della difesa, l'ennesimo errore di questa stagione. Alessio da Firenze, Alessio. Sì, ciao, buonasera. Eccoci. Ciao. Complimenti per la trasmissione intanto. Prego. Ciao, io senti, volevo intervenire per la Roma, no? Che sono di Firenze ma sono per la Roma. Sì, Fiorentina non parla nessuno, ieri ha giocato una partita strepitosa, Fiorentina da Firenze, ma non parla nessuno di Fiorentina, comunque esatto. Roma. Senti, no, io penso che Garcia comincia a pigliarsi le sue responsabilità per come sta la squadra, per come gioca, e poi soprattutto un'altra cosa, cioè Perché facciamo giocare Dumbia e Gervinho, che hanno festeggiato sicuramente fino a giovedì sera, e non facciamo giocare Verde? Perché Verde è un bambino, e io credo però che sia anche una scelta logica. Prova a immaginare, Alessio, cosa sarebbe accaduto al contrario, cioè se tu avessi pareggiato con il Parma lasciando in panchina Gervinho e Dumbia, per quanto appena rientrati, con Dumbia sballottato dal fuso orario, è stato in Costa d'Avorio, poi è andato a Mosca, poi è tornato a Roma. Io non ci trovo un errore dal punto di vista di Garcia in questa scelta, Carlo. No, nemmeno io, ma anche Dumbia non mi sembra esattamente l'attaccante in grado di fare gol. Non è un attaccante di peso, non è un attaccante da area di rigore, non è uno che sparia le carte. Al di là di tutto questo sballottamento, la Roma è direi quasi aleatoria, come Gervinho, che oggi non, per queste ragioni non è riuscito ad essere quello che è di solito. Però è evidente, manca, l'abbiamo detto prima, ha ragione Galamai, non vince uno scudetto senza un grande attaccante. Romano da Milano. Romano, buonasera a tutti. Eccoci. Volevo intervenire su quanto ha detto Lotito. Sì. Allora, d'accordo, è gravissima la discriminazione che si fa nei confronti di queste squadrette poverine, di queste piccole squadre. Però il mio lato oscuro del mio cuore vede una cosa forse ancora più grave, vorrei il vostro parere. Secondo me, se lui dice se mi fai salire il Carpi e il Frosinone e la terza squadra me la ricordo, cosa intende? Non è che intende anche dire che potresti non farmele salire? E come me le fai a non farle salire? Come fai a non farmele salire? Le metti i bastoni tra le ruote? Sì, ma la cosa grave è quella, cioè stando oggi le regole così come sono, cioè con tre promozioni e tre retrocessioni, quello che dice Lotito è inaccettabile. Abbiamo detto venerdì, no? Che il senso. Poi possiamo. Poi il giorno in cui Lotito avrà dato le dimissioni, ragioneremo magari sull'ipotesi di una Serie A con una diversa ripartizione delle retrocessioni. Posso leggervi due numeri: settimana scorsa Empoli-Cesena televisiva, audience 8.818 telespettatori. Cioè è evidente che il discorso di Lotito in sé sulla necessità e sull'opportunità per il campionato di Serie A di avere le grandi piazze non è un discorso che possa essere gettato nel cestino insieme a tutto a tutto il resto. Fatto salvo che oggi le regole sono queste. Appunto, si tratta di stabilire nuove regole e nuovi parametri, perché se Galliani dice per iscriversi bisognerebbe istituire una licenza tipo quella dell'UEFA, si potrebbe ragionare su molte cose, però la forma diventa sostanza in quelle parole di Lotito. Cioè, l'ascoltatore ha ragione, perché è quello che balza subito all'occhio, no? Come puoi, quello che poi ha definito un cretino, dire mi fai salire questo, non mi fai salire quella. Poi probabilmente è slang, vogliamo credere che sia slang, però è evidente che quello balza all'occhio. C'è Gasperini, microfoni di Sky. Forse ha perso un po' di tempo a giocare in ruoli un po' ibridi, però lui è un giocatore completo per capacità tattiche, tecniche e anche per resistenza atletica, quindi ho cercato sempre di impostarlo in quel ruolo e già rispetto all'anno scorso è cresciuto notevolmente, e queste sono indubbiamente le mie soddisfazioni migliori quando vedo dei giocatori che è un gruppo, anche perché poi comunque è vero sono arrivati tanti nuovi, però la base è quella del girone d'andata. Oggi c'era Niang e Berbic di nuovi, poi gli altri gradatamente entrano su dei giocatori che però hanno già fatto un girone d'andata importante, e sono convinto che anche questi nuovi poi dopo ci daranno un aiuto, speriamo ripetere il ritorno nel modo simile di comunque. Mi sembra che abbia già cominciato Niang oggi doppietta a proposito di grandi rammarici che hanno un po' tutte le squadre. 800 24 00 24, vogliamo sapere cosa ne pensate della Roma che si ferma e della crisi del Milan, anche aspettando la Juventus questa sera a Cesena. Traffico. Sì. sono molto contento, lo dico agli amici di tutti i convocati weekend, che abbiamo preso un ragazzo molto giovane, made in Italy, molto forte, molto coeso e positivo, come destro, che oggi è anche segnato da grande opportunista. Ancora 10 giocatori, un allenatore e siamo a posto. Convocati. Arrivano i soldi domani? Noi confidiamo che domani al 90% riusciamo a far fronte a quanto agli impegni presi. Se invece accade il 10%, che succede? Nulla, sarà martedì, anche perché sono già state viste sia la banca emittente che la banca ricevente tutte le documentazioni. Lei può tranquillamente guardare in camera, rassicurare i tifosi del Parma, sicuri il futuro del Parma è tranquillo nelle mie mani? Guardi, tranquillamente lo posso dire. Così parlò Manenti. Sono e noi domani curioso. Saremo qui sono ad aspettare il bonifico. Fammi salutare Franco Ordine del giornale. Ciao Franco. Ciao Franco. Riapriamo il dossier Inzaghi, a parte il dossier Manenti che ti risparmio. Ma il dossier Manenti non è un dossier, non c'è niente per il momento. È una cartelletta vuota? Esatto. Esatto. Ha detto al 90% il bonifico arriverà. Sono proprio curioso. È come se io vado, come se io andassi domani mattina in una concessionaria d'auto, mi informo su quanto costa la macchina, mi informo su quante rate devo pagare. Firmo il contratto, fissiamo tutte i vari appuntamenti per le varie rate, dopodiché esco, mia moglie mi chiede: allora che hai fatto? Hai comprato la macchina? Io dico: sì, l'ho comprata al 90%. O l'hai comprato o non l'hai comprata, è questo 90%. Vabbè, però intanto oggi il Parma ha dato una risposta sul campo che merita di essere sottolineata e lo abbiamo fatto. È stata una delle due sorprese, se vogliamo chiamarle così, della domenica. Non so se l'Empoli di San Siro, Franco, possa essere definito una sorpresa. No, non più. Non neanche più il Milan di San Siro di oggi. No, nessuna delle due è una sorpresa. Indifendibile oggi il Milan, Ciccio? Non è una sorpresa perché intanto il Milan... diciamo del 2015 è così dall'inizio, dal 6 gennaio quando ha cominciato con il Sassuolo fino a oggi, e quindi è una costante. Di contro l'Empoli è così dall'inizio della stagione, e cioè nel senso una squadra che gioca a calcio sempre con chiunque, qualunque avversario affronti, è difficile portargli via il possesso del pallone. È una squadra che conosce alla perfezione il copione, un copione ben definito, e poi non disponendo di grandissima qualità e di una cifra tecnica esagerata, naturalmente i suoi risultati sono modesti, ma nella modestia c'è una eccellenza dal punto di vista dello stile di gioco. Poi ci potrebbe essere anche Lotito che dice: ma tanto l'Empoli non conta un cazzo perché lo guardano in 8.000. Per usare un linguaggio icastico, oggi siamo icastici, lo direbbe Lotito, mica io. Anche su Lotito, mi meraviglio di voi. State facendo il festival dell'ipocrisia. Diciamo che dovrebbe andarsene, ma poi dovremmo aprire tutti un discorso sulla Serie A. Che cosa? Ma sai quanti se ne devono andare prima di lui? Quello che dice Lotito... può andarsene in compagnia, Franco, però... Ma quello che dice Lotito lo pensano tutti quelli che hanno un po' di sale nella zucca, perché è evidente che se in Serie A salgono Carpi e Frosinone, l'appeal della Serie A diminuisce e quindi il valore dei suoi diritti televisivi diminuisce. Sì, il problema è che a urne aperte non si parla, e per urne aperte intendo tu non puoi dire tu non mi fai salire questo o quello. Allora, che poi si dica che poi queste cose non le può pensare ma non le deve dire è un conto, ma bisogna anche aggiungere che se ciascuno di noi ricevesse da un personaggio X, da un amico, da quello che considera un interlocutore, una telefonata con la trappola, e cioè io chiamo Tizio, e so chiamandolo che io registro, sai quante cose faccio dire ai miei colleghi su questo è indiscutibile, questo è indiscutibile sulla ma l'abbiamo detto anche l'altro giorno subito a caldo sulla legalità, legittà, sulla liceità di questa manovra. Ci teniamo tutti i nostri dubbi perché ormai il diritto alla privacy è carta straccia, risponderanno in tribunale pubblica che l'autore. Ciccio, però non ci hai detto se ha aperto il dossier Inzaghi, che oggi ha detto è un momento un po' così. Io ho fatto due conti: 5 punti nelle ultime 7 partite, quelle del 2015 che citavi, 12 nelle ultime 13. Se è un momento un po' così, è anche un momento un po' lungo. Non è un po' così, è una situazione ormai, questa è, diciamo, oggi è, secondo me c'è il timbro, il sigillo sulla secondo me non competenza assoluta di Inzaghi nel guidare un gruppo come quello del Milan. Se voi aveste ascoltato come me le parole di alla fine della partita di Sarri, avreste capito perfettamente che cosa succede. Sarri ha detto: ho visto negli occhi della squadra del Milan prima di cominciare della preoccupazione. Durante la partita quella preoccupazione si è trasformata ha detto panico, ha usato lui il termine che panico, è anche peggio della paura, che è anche peggio della paura, bravo. Quindi questo vuol dire che questa è già una squadra così. E poi aggiungo, togliamo il finale quando è stato in 10 oppure quando ha chiuso in 9, ma quando era in 11 contro 11 mi chiedo, è possibile giocare peggio? Secondo me no. La risposta di Inzaghi è: per una squadra come la nostra che da 15 giorni ha cambiato modulo, era impossibile pensare di avere di governare la partita più dell'Empoli. Allora a questo punto mi dispiace, non ci sto più. Sì, restiamo a quello che ci dicevamo fino a una decina di giorni fa, a meno di cataclismi, Inzaghi finirà questa stagione e poi il Milan dovrà ripartire di nuovo da zero, credo questa volta con una scelta proprio diversa come profilo, Franco, poi ti devo salutare. No, ma come profilo, come qualità, come capacità di dare un copione e soprattutto poi vi do una dritta. Voi studiate durante il riscaldamento cosa fa Inzaghi, guardatelo, a parte tutto quello che fa durante la settimana, che naturalmente non viene visto in video, ma in video è possibile vedere quello che fa durante il riscaldamento. Continua a martellare in uno stato di completa agitazione tutti i singoli giocatori uno alla volta, senza rendersi conto che così facendo non fa altro che moltiplicare lo stato di nervosismo, di tensione e di preoccupazione. Sì, ansia da prestazione. Grazie Franco. Ciao Ciccio, grazie. Saluti. Ciao ciao. Grazie a Franco Ordine. Chi è? Chi sta arrivando? Erviveretta non è un serpente, è solo un presidente che diventa indecente. Sì, però non siamo a Sanremo. Non siamo a Sanremo, presidente Ferrero. Non è una biscia, mi piace Preziosi se striscia ed Ergena se sfascia. È arrivato a Sanremo non lo tiene più nessuno. Sarà sotto la doccia. Lasci perdere la musica. Sì. E fatemi cantare. No, noi dobbiamo andare avanti. Tra l'altro poi parleremo anche della Sampdoria. Che fa? Già me caccia via pure lei. Sì. Ci ho messo 50 anni a venire a cantare. Sì, ma noi non siamo a Sanremo. Quanto sei caruccio, mando vado. Dove vuole, presidente? Ma Bruno Conti. Ma vada allo stadio. Ma che Bruno Conti? Carlo Conti. Vada allo stadio che c'è la Samp. Ma me faccia cantare. Sì. Non se paga, è gratis. Sì. Ma ne facciamo anche a meno. Ne facciamo anche a meno tutti. Anche a casa. Allora, vegando una cosa caruccia, bella cosa che piace a Sinisa Mialovic. Sì, dai, fermatelo però. 800240024. Chiamate voi per fermarlo. Vita. Sì. Era la San Mialovic ed era Edo. A dopo, presidente. Ragazzi, ci sono fra poco, tutti convocati weekend 800 24 00 24. Se becchiamo fra poco, Tutti convocati. Ecco. Io questo non lo so perché non ci sto nella Lega di A, non lo so. Pietro Lacorte ha montato questa bellissima copertina. Si può dare di più, tutti, non solo Tito e tutti gli altri. Ciao Pier. Eccomi, pronto. Pier Luigi Pardo, buonasera. Ti sento benissimo. E anche noi. Benissimo. Altrimenti mi potete dare, vi do il pizzo qui, No, si sente al benissimo. Stai fermo lì. Si okay. Sente benissimo. Al primo segnale di cedimento, dire. Okay. Sì, al primo segnale scateniamo l'inferno. 800 24 00 24, voto alto per Conte cantante. No. Meglio, diciamo, dai. Meglio. Meglio Dervi Peretta, Beh, sì. Era della parte, devo dire, sì. Che era della parte. Sì, più presenza scenica che, esatto. Che altro. Live. Sì, possono dare di più tanti, Oggi abbiamo visto può dare di più il Milan, può dare di più la Roma. Che idea ti sei fatto di questa domenica? Ma guarda, il pareggio è proprio un classico, pareggio in casa col Parma, ultimo in classifica, è un classico della storia della Roma. Penso che tanti anni, insomma, queste situazioni ci sono state. Mi ricordo un pareggio col Pescara 2-3 anni fa. Pescara già ampiamente retrocesso, un pareggio ad Ancona con Capello in un anno in cui si era in lotta per lo scudetto col Milan, che insomma, diciamo, rientra proprio nella storia giallorossa, insomma, la squadra è veramente sotto ritmo. Ho sentito l'analisi di Florenzi qualche minuto fa, perfetta. Sì, ha detto non siamo più la macchina perfetta che eravamo. Esatto, quindi insomma c'è poco da commentare, poco da aggiungere. È chiaro che è qualcosa di clamoroso, per certi versi è più clamoroso il pareggio della Roma in casa col Parma della sconfitta del Napoli ieri a Palermo, nel senso che quella ci poteva anche stare. Il pareggio col Parma è veramente una maledizione per la Roma, e stasera qui a Cesena, insomma, la Juve può chiuderla, secondo me, definitivamente. Sì, perché a più 9 diventerebbe davvero difficile pensare a un epilogo diverso del campionato. Perché non vinci il campionato pareggiando in casa 0-0 col Parma, insomma. Sì, una maledizione o una fortuna, visto che siamo alla vigilia della ripresa delle coppe europee, e forse la Roma da questa sera ha ufficialmente la testa sgombra dal dubbio se continuare a inseguire il sogno dello scudetto o magari concentrarsi sull'Europa League. Chissà che alla fine il Parma non abbia fatto un piacere a tutti, compreso al campionato, di cui abbiamo parlato molto, sulla regolarità. Sì, al campionato magari no, tanti perché, discorsi. Perché lo chiude oggi, cos'è? No, però abbiamo avuto la conferma che è un campionato che resterà regolare fino alla fine. 800 24 00 24. Poi purtroppo dovremo anche tornare a parlare delle altre vicende. Intanto Massimo da Venezia. Massimo, sì, buonasera. È che dopo aver sentito un fiorentino gobbo, cioè un fiorentino interista e uno romanista, manca solo il fiorentino gobbo e a quel punto saremo a posto. Per sì, fortuna arriverà, non lo sono. Arriverà. Invece Massimo da Venezia, tifoso della Fiorentina, della Fiorentina. Eravamo preoccupati. No, ho paura anche di parlare, perché sono 2 settimane circa dalla partita di Roma in Coppa Italia che sta andando tutto bene, per cui sarebbe da non dire assolutamente nulla. E invece sono contentissimo, Montella deve solamente rendersi conto che Alonso non è adatto al calcio di Serie A, e a quel punto direi che più o meno non ci sono altri aggiustamenti da fare, ecco. Sì, sì, perché tra tutto quello che è successo direi che siamo pronti per tutte le competizioni. Ha fatto un mercato perfetto la Fiorentina. Sì, c'è la certificazione che è l'affare dell'anno, la cessione di Cuadrado a quella cifra. Io, scusate, posso rivendicare? Io sono d'accordo. Rivendico. Sì, Piero. No, rivendico perché mi ricordo proprio che ne parlavamo una ventina di giorni fa e vale in assoluto come ragionamento il fatto che cedere bene può essere importante, può essere un'arma per costruire una squadra migliore dalla cessione di Ibrahimovic in poi o da quella di Zidane in poi, se preferite. E in questo caso mi sembra la Fiorentina a maggior ragione, anche tecnicamente, insomma, ha preso giocatori importanti, sta crescendo tanto e mi sembra che, insomma, anche perché Cuadrado, diciamo la verità, insomma, è un grandissimo giocatore, ma probabilmente aveva ormai nella testa altri pensieri, quindi è stato abbastanza evanescente in questa stagione. Sì, aveva un po' staccato psicologicamente. Mario da Parma, Mario. Sì, salve, buonasera. Eccoci. Parlo del mio Milan, del mio Inzaghi e del cuore del Milan che hanno adoperato per prendere Inzaghi, cioè per farlo diventare l'allenatore del Milan. Hanno lavorato col cuore e non hanno lavorato con la testa, secondo me, perché sì, volevano ripetere magari le gesta della Juventus riprendendo Conte e tutto quanto, però Inzaghi non ha l'esperienza giusta per poter gestire un gruppo di Serie A, logicamente così, secondo me hanno lavorato troppo con il cuore senza pensare a un vero progetto che poi non c'è dietro alla fine. Speriamo nel prossimo anno. Ma non ha lavorato neanche col portafoglio, perché infatti, infatti anche un portafoglio prendere un portafoglio è una cosa, sì, beh certo, ma hanno avevano Seedorf, che magari Seedorf sì, qualcosina ha fatto vedere diciamo così a livello di gioco, sì, che poi ha spaccato lo spogliatoio. Certo, ha spaccato lo spogliatoio, ma lo spogliatoio si spacca quando c'è uno che vuole dire la sua. C'è niente da fare quando uno dice, allora io non so se Conte all'inizio ha spaccato lo spogliatoio, ma non l'ha spaccato, l'ha raddrizzato, secondo me, non so. Sì, o forse aveva dato una lettura un po' troppo franca, un po' troppo diretta di quello che oggi il Milan, lettura che in questo momento il Milan ha i piani alti a livello societario, forse anche legittimamente ha bisogno di non sentirsi fare. Scrive un amico, 349-238-6666, si chiama Andrea, possiamo dire che il Milan ha mandato al macello Inzaghi, estrema sintesi, non lo so, traffico. Sentire certe cose non è facile. Secondo me lo Tito si è fatto una canna. Tutti convocati. Non lo dico al dirigente mio, lo dico a un dirigente importante del nostro calcio. Una sua reazione, una sua... Io non ho voglia di commentare tutto, mi sento di dire che sono e resto amico di Claudio Lotito. Questa telefonata a noi non è servita per peggiorare l'immagine, l'idea che già avevamo del presidente della Lazio di certi metodi che vengono applicati nella gestione della Lega. Quindi... per noi, ahimè, vuole dire, ma niente di nuovo. Sicuramente mi ha lasciato un po' più che sconvolto, sono rimasto un po' stranito da allenatore e da ex calciatore. Credo che alla fine, dopo, quello che conta nel calcio siano i risultati te li dà solamente il campo. Alla fine dalla Serie B verranno sulle squadre che meritano e che avranno meritato la promozione sul campo, indipendentemente che una si chiami Carpi, Bologna, Perugia o Livorno. E in fin dei conti a me sembra che il calcio sia, per una squadra, al di là di tutti i meccanismi che movimenta, interessi economici, grandi stadi, spettacolarizzazione degli eventi, poi alla fine ci sono anche i valori di campo. L'ultimo era il presidente dell'Empoli, Fabrizio Corsi, intanto 18 minuti sul cronometro, il Chievo vince 1-0 con la Sampdoria, gol di Isco dopo 2 minuti, 8-0-0-24-0-0-24. Perché c'è anche questo, Pier, in questa domenica, c'è la raccolta delle opinioni e dei pareri sulla questione Lotito. Citavamo prima con Luca Calamai il sondaggio della Gazzetta dello Sport pubblicato questa mattina. Quelli che condannano Lotito sono 3-4, forse stasera arriveremo a 5 con la Juventus. che non si è ancora pronunciata. No, no, la Juve già te lo posso anticipare, sicuramente se non lo farà, non lo farà perché non ce n'è bisogno, ma certamente la arriveremo a 5. Ma la sfida di potere è quella, Guarda, questa vicenda è molto strana, sinceramente. Lotito ha delle uscite molto poco eleganti. Io non conto niente, ma avrei votato per un altro presidente federale, lo sai, non detto le volte. Detto questo, è una conversazione privata con una persona che sta lì con un registratore per estorcergli delle risposte e che lo provoca su degli argomenti. È chiaro che se venisse accertato che Lotito vada a Bodi e gli dice: oh, bisogna non far salire le squadre piccole, perché se facciamo salire le squadre piccole il calcio italiano finisce per gli diritti televisivi, quindi fai qualcosa, o va dal capo degli arbitri, o va da chi volete voi, allora a quel punto saremo di fronte a qualcosa di una gravità assoluta. A me è sembrata una conversazione certamente sgradevole, certamente difficilmente giustificabile, ma che rientra in quel discorso che facciamo l'altro giorno. Cioè, io penso che Platini, quando parla con i suoi amici al telefono, se può decidere se la finale di Champions League, cioè se preferisce che sia Basilea-Porto o Real Madrid-Chelsea, sì, certamente motivi, dice Real Madrid-Chelsea. Nella conversazione sento questo, poi è chiaro che l'immagine di Lotito è largamente compromessa per tutta una serie di valutazioni, eccetera. Però, insomma, devo dire la verità, mi è sembrato un agguato, ecco. Uno che sta lì col telefono a provocarti e sai che sta registrando e dopo 2 ore chiama Repubblica e gli dà questa cosa. Facciamo finta che sia slang? Quella no. Non mi fa salire, possiamo pensare, sì, però, che sia insomma, non possiamo neanche far finta che Lotito non sia vicepresidente federale e che comunque qualcosa qualcosa lascia intuire che noi ci auguriamo che non ci sia. C'è anche chi ha detto da venerdì il Carpi è intoccabile, ieri l'ha detto anche l'allenatore dello Spezia, ha detto il problema è di tutte le altre oramai, perché il campionato è falsato, ma è falsato perché difficilmente non faranno salire il Carpi. Tra l'altro ieri, insomma, a 3 minuti dalla fine c'è stato un rigore per il Carpi, diciamo più che dubbio, che poi è stato sbagliato, insomma, ironia della sorte. Quindi, ma no, io dico che secondo me le modalità di questa cosa qui sono completamente sbagliate e quindi, cioè, se io devo prendere una prova di una cosa grave come potrebbe essere appunto un'ingerenza di un certo tipo, non la posso prendere così, cioè, non la posso prendere in una conversazione privata con un dirigente di una società di Lega Pro. Se io avessi sentito, o se avessimo una registrazione telefonica, un'intercettazione di Lotito che dice ad Abbodi non mi devi far salire questo, devi fare qualcosa con tutte le tue forze perché non devi farlo salire, allora sarebbe diverso. Io ho sentito un discorso generale sull'aspetto dei diritti televisivi, che è un discorso... Sì, ma io credo, Pier, ma ne abbiamo parlato venerdì, perché nel primo caso sarebbe reato. Vadano divise le due cose, cioè vanno davvero divise le due cose. Il problema è che con queste regole, comunque, quello che dice Lotito è inaccettabile oggi. Poi domani mattina facciamo un programma politico e io... sai benissimo, sono assolutamente d'accordo sul fatto che la Serie A dovrebbe strutturarsi, magari non dico come la NBA, basterebbe l'Eurolega di basket, dove non tutti partecipano. Ma io invece sono contento che il Carpi salga, sono contento che sta il Frosinone, nel senso che pure per me ha un valore il campo, no? Tante volte abbiamo parlato in questi anni, sta vincendo 1-0 con la Samp della favola Chievo o della favola Sassuolo, cioè è bellissimo che il campo riesca a delle volte a sovvertire l'ordine costituito, alla bellezza dello sport, nessuno lo discute, ma il discorso qui che fa Lotito al telefono è un discorso diverso. Lotito fa un discorso e dice dal punto di vista dei diritti televisivi se vengono in Serie A squadre che non hanno un grande bacino d'utenza è una sciagura. Sì, ma li abbiamo citati prima i numeri. Empoli-Cesena domenica scorsa 8.818 ascolto medio. Sky più Mediaset o medio? Mediaset no, perché non ha i diritti di quella partita lì. Però questa cosa qui per me è una conversazione privata. Ripeto, poi se Lotito chiama il capo degli arbitri e gli dice: oh, non devi far salire il Frosinone, bisogna inventarsi qualcosa, non va fatto salire perché sennò il sistema fallisce, allora lì è un reato. Però è un'altra cosa, secondo me. Filippo da Modena, Bruno da Modena, Pasquale da Napoli, 800 24 00 24, siamo qui fino alle 19, 1-0 per il Chievo sulla Samp. Filippo. Sì, salve. Eccoci. Una cosa, io sono rimasto allibito da quello che ha detto il giornalista Ordine. Franco Ordine, fra l'altro, di cui ho letto un articolo lunedì, non so se volete recuperarlo, che praticamente dava ragione a Galliani sulla polemica clamorosa che ha fatto, e poi oggi praticamente cerca di giustificare quello che ha detto Lotito in questi giorni. Sì, ma signori, noi veniamo da Calciopoli, o sbaglio, dove c'era un Moggi che comandava il sistema calcio. Okay. Non vi sembra che Lotito e Galliani si stiano dirigendo verso questa soluzione che abbiamo già vissuto? No, ma Filippo, a parte che Galliani non è l'unico, ripeto, oggi Gazzetta dello Sport, 15-16 società su 20 alla fine assolvono più o meno quello che ha detto Lotito, quindi non è una questione, se comandano in tanti, mettiamola così, e poi noi quello che stiamo cercando di dire è che forse va fatta una scissione tra la cornice, il modo, quello che abbiamo sentito, e anche eventualmente un ragionamento, ed è difficile che un dirigente di una grande squadra oggi non la pensi come Lotito, o no Filippo? Questa è la cosa grave secondo me, cioè allora i principi del calcio dove vanno? Scusate. No, però Real Madrid e Barcellona, Real Madrid e Barcellona in Spagna, Filippo, vendono per conto loro, vendono per conto loro. Non sono i principi del calcio, mi scusi, se il proprietario, l'organizzatore del Roland Garros, come dicevo l'altro giorno, potrà volere come finale dal suo punto di vista commerciale, economico, Federer, Nadal o Nadal Djokovic, piuttosto che scegliete voi, Ocletto contro Barazzutti, con tutto rispetto per Ocletto e Barazzutti. Questo è, poi ribadisco, se c'è dell'altro, Lotito va preso ed è un reato, e a quel punto ci sono tutti gli estremi perché venga giudicato, ci mancherebbe altro. Ma questa roba qui è una conversazione telefonica, oltretutto questa roba qui è una cosa fatta da uno che sta lì al telefono e ti dice, sì, che però non siamo in tribunale, Pier, cioè questa cosa oramai l'abbiamo sentita, ma secondo te questa qualcosa si potrà anche, ma una anche conversazione privata fra qualsiasi politico, qualsiasi dirigente, cioè se prendessimo le intercettazioni di tutte le telefonate private fra persone, secondo me saremmo di fronte a... Beh, sì. Sì. Posso dire una cosa all'amico Enrico che ci ha scritto che siete incredibili, state facendo di Lotito un martire. Enrico, ascolta bene. Ma che martire? Fatemi chiamare Bruno da Genova prima che ci sia la pausa. Bruno. Ciao. Prego. Ma io dico solo una cosa. Ammettendo che sia come dice anche Pardo, ma quali sono le azioni concrete che loro hanno fatto per non trovarsi in questa situazione, non avere 20 squadre e tutto quello che è la povertà, gli stadi e quant'altro? Cioè, non è certamente il Carpi il guaio del calcio italiano, però ripeto, caro Getta segue più di me il basket, lo sfido a dire che il commissioner dell'Eurolega è un cialtrone, invece è un ottimo dirigente che ha cambiato la storia dell'Eurolega, ha creato un grande spettacolo, creando un sistema che non è chiuso del tutto, ma non è aperto a tutti, questo è il concetto, però questo secondo me si può ragionare dopo. Esatto, ci vogliono delle regole. Se vogliamo cambiare le regole, possiamo metterci lì, e allora possiamo anche in linea di massima essere d'accordo su molte cose, comprese alcune di quelle che ha detto Lotito. Con le regole attuali, le regole attuali sono le regole attuali, altrimenti prendiamo il Chievo, lo sbattiamo in Serie B di Imperio, eppure l'Empoli che fa 8.000 spettatori, 8.000 telespettatori, no? Quindi come si augurerà Lotito e come si augureranno molti dei dirigenti della Serie A, perché è meglio avere in Serie A il Bologna dell'Empoli, no? Ma c'è l'evidenza, scusate, che le squadre piccole siano le squadre piccole, intendo veramente le 3-4 squadre con un bacino utenza piccolo del campionato di Serie A, c'è la sensazione che vengano vestate dagli arbitri? A me sembra no, sinceramente, ripeto, è un discorso, è una sgradevole conversazione privata, è una sgradevole conversazione privata di un personaggio che sicuramente ha avuto tante uscite ineleganti, che ha sostenuto un presidente federale che io non avrei votato, però insomma secondo me le modalità di questo episodio sono modalità quantomeno sospette. Sì, però Pier, oggi su Corriere della Sera ha dato da Bodi del cretino, e quella non è una conversazione privata. Non una telefonata intercettata. Vorrei essere chiaro. Toni i castici, ha detto lui. Vorrei minimamente fare l'avvocato di direzione di Lotito, perché è proprio un ruolo che non mi serve. Non voglio farlo, non me ne frega niente, e ripeto, è un personaggio spesso molto inelegante. E questa uscita è inelegante. Però è una conversazione privata. Cioè, e di questo stiamo parlando, ed è una conversazione privata sui massimi sistemi, non è una conversazione privata su ho detto all'arbitro di fare quello perché deve favorire quell'altro. Non è questo. Se fosse questo, allora c'è la radiazione, secondo me. C'è una piccola pausa invece, 800 24 00 24, poi ripartiamo da Pasquale da Napoli, Gianni da Fermo. Un cordiale saluto dal vostro senatore Maurizio Gasparri. Allora, adesso faccio un tweet. Chiocciolina, Claudio Lodito, hashtag, ma che sei impazzito? Altra chiocciolina, no, famo un hashtag, va. C'è chi sulla terra, c'è chi nello spazio, mi dichiaro, abbasso Lazio! Tutti convocati. Cosa prova un allenatore come lei dalla grande esperienza internazionale di fronte ai disastri e ai mali del calcio italiano? Io credo che dobbiamo parlare di questa partita, sennò il discorso sarà troppo lungo. Però alcuni suoi colleghi si sono espressi, parole molto dure da parte per esempio di Allegri. Io credo che insomma lei abbia l'autorevolezza e l'esperienza per poterci dire la sua opinione. Sicuro, ma oggi non è il momento, perché dopo perdere una partita così credo che devo concentrarmi a migliorare le cose che non abbiamo fatto bene. La lascio a Gianni Di Marzio, anche se non ha voluto rispondere. Questo era Benitez, che ha l'esperienza, l'autorevolezza, ma ieri non aveva una gran voglia di parlare. Non se l'è sentita. 800 24 00 24. Io so che Pasquale da Napoli e Gianni da Fermo invece se la sentono, però prima vi dico che settimana prossima c'è il derby di Genova. Ci arrivano Genoa a 35 punti e la Sampdoria chissà, in questo momento è a 35, sta perdendo 1-0 contro il Chievo. Io mi porto però da questa settimana, dall'altro giorno, una cosa meravigliosa che vi devo far sentire. Presidente, c'è il Chievo e poi c'è il derby. E chi se ne frega? Come? Meraviglioso. Chi se ne frega? Pasquale da Napoli. Pasquale. Sì, ciao, buonasera. Io volevo dire soltanto due cose. La prima, sono sottotitolo del Napoli. E secondo me quest'anno c'è dietro un po' queste sconfitte, un po' anche il marchio di De Laurentiis, perché l'anno scorso lui, avendo fatto un investimento sul portiere, su Rafael, ha mandato via Pepe Reina non rinnovando il prestito, e ci può stare. Però vedi che si gioca male, pur avendo in panchina un vicecampione del mondo che risponde al nome di Andukar, e non lo cambi perché non vuoi bruciare un investimento che hai fatto su questo portiere. Poi una domanda a Pardo volevo fare, se è in linea. Sì. È vero che quella è una telefonata privata, sono d'accordissimo, e da biasimare il tipo, l'estorsione che ha fatto quel tizio da Ischia, eccetera. Ma ti chiedo, anche quella di Moggi era una telefonata privata, quando diceva che voleva chiudere l'arbitro, aveva chiuso l'arbitro nello spogliatoio? Sì, Pasquale, la differenza è che una è intercettata dalla polizia e l'altra è registrata dal signor Iodice. Poi però, scusa Pier, se vogliamo, perché poi, scusa Pier, perché è scivolosa la questione, il termine estorsione, in tutta sincerità, noi non lo sottoscriviamo. Prego Pier. No, ma assolutamente no. Giusto, perché insomma le parole hanno un significato, noi non siamo i castici. È quella che hai detto tu, il sospetto che alcuni dirigenti sportivi possano decidere, per dei motivi appunto di interesse economico, anche generale del sistema calcio, di manipolare i risultati a vantaggio delle grandi rispetto alle piccole, è un sospetto terribile, è un sospetto enorme. Però sinceramente, da quello che io ho sentito, da quella telefonata, oltretutto, ripeto, che nasce dalla volontà di mettere nei guai lo dito, perché insomma uno che fa una roba del genere decide, cioè, e poi dopo 2 minuti di chiamare pubblica è perché evidentemente lo fa con un'intenzione, no? Non c'è, credo, molto da discutere, non è che casualmente è finita da una parte, cioè proprio è stata c'è anche il precedente. Parliamo del Napoli. Io non credo che il portiere sia il problema, se proprio devo dirlo, anche se ne ha presi 30. Anche se sicuramente lì è stata fatta continuamente una più di prospettiva che di presente, nel senso che è vero quello che dice l'ascoltatore, Andukar è un portiere che ha avuto molti alti e molti bassi, una grande carriera dal punto di vista dell'esperienza, la Libertadores e tutto il resto. Sicuramente la scelta di Rafael è una scelta di prospettiva, no? Dopo la partenza di Rey si è deciso di valorizzare questo portiere. E qualche rischio e qualche circostanza, tipo ieri, la scelta non ha pagato. Comunque il Napoli di Reina, il Napoli di Reina aveva preso 57 gol in 53 partite. Questo ne ha presi 30. Questo, qui siamo a 41 su 34, tutto compreso, per cui siamo pienamente in media. Reina o Rafael, io credo che sia tutta la fase difensiva del Napoli. Ecco, il Napoli è più forte davanti che dietro, questo non ho dubbi. Il Napoli è una fase offensiva da squadra secondo me praticamente da scudetto, ha un attacco fortissimo, ha una fase difensiva e anche secondo me degli interpreti che non sono all'altezza. Strinic ha dato un po' di equilibrio, però comunque le difficoltà dei centrali ci sono e in una serata storta vengono. Sì, però non è tanto perdere a Palermo, prima si diceva con Antonio Giordano, è stato forse il peggior Napoli, diceva lui, degli ultimi due anni, eccetera. Il problema secondo me è stato nell'approcciare male questa partita in un momento così importante, in cui sei a caccia della Roma, in cui stai bene, vieni da tante vittorie. Cioè, poi vai a Palermo con questi diavoli che hanno avanti l'oro, ci può stare anche la sconfitta, però l'approccio è stato sbagliatissimo. L'approccio è stato sbagliato come è stato sbagliato l'approccio della Roma oggi, assolutamente. Ma sai, il Napoli veniva da una serie di vittorie consecutive, non tutte brillantissime, è vero, però aveva dato la sensazione di riuscire a cavarsela meglio nelle situazioni complicate, no? E portare a casa partite complesse come quella a Verona contro il Chievo, quella col Genoa, al di là degli episodi arbitrali, comunque alla fine l'aveva portata a casa. E ieri era l'esame vero di maturità che non è stato superato, c'è poco da discutere, ma è chiaro che se la Roma è questa, la lotta per il secondo posto rimane aperta. Sì, sì. Però rischia di diventare un ciapanò. Sì, rischia di diventare una gara a chi si ferma meno. Gianni da Fermo, Gianni. Tutto. Marco da Arezzo, Marco. Sì, salve, buonasera. Eccoci. Salve, io ho dilottito e della crisi del calcio, ma ieri ho visto Palermo-Napoli, è stato vuoto. Io credo che non è colpa del Carpio, dell'Empoli, cioè se neanche Palermo-Napoli riempiono lo stadio, insomma, vuol dire questo. Facendo zapping ieri pomeriggio ho visto Crystal Palace a Liverpool, c'era lo stadio pieno, insomma, e a Londra fa più freddo che a Napoli, che a Palermo, insomma, ecco, volevo dire questo qui, insomma. Sì. Sì, ma è che il problema non sia centrale, la questione posta da Lotito, mi sembra che l'abbiamo detto, e con questo rispondiamo anche all'amico che ha scritto: avete mai sentito in Inghilterra un vicepresidente di Lega dire che allo Crystal Palace è meglio se non vadano in Premier? Però l'Inghilterra è un altro mondo e ha anche altre dimensioni dal punto di vista economico, cosa che l'Italia ancora non anche si può permettere. Perché Crystal Palace vanno in Premier immediatamente le coprono di quattrini. Noi siamo molto più vicini alla Spagna da questo punto di vista, Pier. Assolutamente, fra l'altro qualche giorno fa c'era la suddivisione dei ricavi delle squadre inglesi. L'Inghilterra è il modello perché è, secondo me, il mercato che tiene. Non è che l'Inghilterra ha le regole, diciamo, sulle squadre grandi che devono guadagnare qualcosa di più perché se lo portano da casa per secondo tempo, non è che non valga, però l'Inghilterra ha trovato un equilibrio ed è fondamentale il concetto di equilibrio della suddivisione dei diritti televisivi, perché altrimenti questo è il fatto veramente grave. Se aumenta la sproporzione tra grandi e piccole, poi non si gioca più perché i campionati finiscono a febbraio, come per esempio in Germania dove c'è una squadra che domina, vince 8-0 con l'Hamburgo. Se tu non riesci a garantire un sostanziale equilibrio, una sostanziale parità dei punti di partenza tra le squadre, finisce che poi il gioco. Allora, intanto il Chievo raddoppia, Giovanni. Sì, Meggiorini in contropiede, 40 metri nella metà campo della Sampdoria, grazie a gentile omaggio difensivo della squadra di Mihajlovic, e poi il rasoterra per il gol del 2-0. 40esimo minuto nel corso del primo tempo, Chievo 2 Sampdoria 0. Ho l'impressione che ci saranno tanti doppi allenamenti anche questa settimana. Chissà se hai tocci, va. Dalle parti di Bogliasco. Pronto? No, chiedo scusa, è ora di smetterla. Sì. È ora di smetterla, ragazzi. Sì, anche lei dice che è ora di smetterla, Moggi. Sì, bisogna smetterla, perché queste cose non si fanno, sono sterili polemiche, è giornalismo spazzatura, è anche Pardo. Pardo, lei è un lazzicherecco della comunicazione, queste cose bisogna dirle. Sì, non è che proprio non abbia detto niente Lotito nella telefonata. Mi scusi, bisogna stare attenti a dire certe cose. Sì. Bisogna stare molto attenti. Lei dice ora di smettere con persone che al telefono comandano. Lotito, al mio cospetto, è un dilettante. Sì. Praticamente ai miei tempi io non chiamavo per non far salire dal Garbi o il Frosinone. Sì. È roba da sbarbatelli. Sì, no, lei si occupava di altro. Sì. Certo, ai miei tempi io non mi occupavo di calcio minore. Io mi occupavo occupavo di cose importanti. Rappresento una parte bella della storia del nostro calcio e della Juventus. Altro che lo dico. Sì, lo dico, è un dilettante. Ma chi se ne frega se ha fatto parlare Marduk con Berlusconi? Beh, insomma, era anni, no, Pier, che non si parlavano Marduk e Berlusconi, giusto? Quindi, non chiedo niente a Pardo. No, lei ha fatto di più, prendiamo atto. Certo, ho fatto di più, perché papà resta, chi l'ha rinchiuso in uno sgabuzzino al termine di regina Juventus? Sì, ma a parte dico, che non è vero, chi se ne frega se i diritti TV sono stati venduti a 1,2 miliardi grazie a lui. Sì, invece lei ha venduto cosa? Guardi, chi ha fatto sparire tonnellate di schede telefoniche svizzere e croate? Io ho lodito, lui è un dilettante. Sì, lei invece ha fatto sparire le SIM, no? Come ha fatto? Come ha fatto? SIM, sola B. Sì, sale. Questo ovviamente non era Moggi, era il nostro Andro Mercù, no, lo diciamo così da casa. Magari sì. Da casa qualcuno... Questo Panariello di ieri sera, che è mezza Italia, mezz'ora a pensare che fosse andato zero vero. Sì, che mi dici invece di Cesena Juve di questa sera? Beh, insomma, è il match point del campionato, diciamo. Nel senso che comunque se la Juve vince va più 9 e secondo me sarebbe un segnale quasi incontrovertibile della forza della Juve. Ma ripeto, perché quello che colpisce di più è la debolezza della Roma. Nel senso che una squadra con un'occasione così, dopo la sconfitta del Napoli, può mettere pressione alla Juve, scende in campo proprio con un altro passo. Sì, credo che se avesse bisogno di stimoli, di motivazioni, ieri ne aveva parlato Allegri, il pareggio del Parma glieli ha consegnati lì su un piatto d'argento. Secondo dopo Udine, ecco, resta detto che l'altra volta che la Juventus ha avuto a disposizione un match point, 2 settimane fa, Roma-Empoli 1-1 il sabato sera, Udinese-Juventus 0-0, l'altra volta non è andata benissimo. Fatemi salutare Toni Damascelli, ciao Toni. Buonasera, ciao. Se aveva bisogno di stimoli, oggi li ha trovati. Allegri. Come? Se aveva bisogno di stimoli per il test a coda di questa sera. Ma io penso questa, sai, la questione degli stimoli è più di noi giornalisti che dei giocatori, perché se i giocatori hanno bisogno di stimoli, pensate al Parma oggi, allora, che stimoli può avere una squadra che come quella. Allegri deve soltanto far sì che la squadra abbia un rendimento costante, non soltanto nel risultato ma proprio nel gioco. A 4 punti in meno rispetto all'anno scorso, che fu un campionato storico sotto quel punto di vista, ma è la Roma che è sotto punteggio anche essa, perché si è incartata. Quindi quello che sta succedendo è il contrario ai proclami dell'allenatore della Roma. Io ho visto la squadra oggi, ho guardato proprio la partita della Roma, l'ho vista molto, ma molto nervosa, al di là delle occasioni che sono anche normali contro la peggiore difesa del campionato. È una squadra che gioca sui nervi e non gioca con quella facilità che l'aveva un po' caratterizzata. Sì, ha ragione Florenzi quando dice con sintesi perfetta l'attaccante non è più la macchina perfetta dell'anno scorso. Non ce l'hai. L'attaccante era a San Siro e ha fatto gol al primo pallone che ha toccato. No, adesso non prendiamo una dimensione anche a destro, per favore. No, però destro è un ottimo attaccante, in questa Roma ci poteva stare. Tony. È un buon attaccante, un ottimo attaccante. Un'altra cosa nella storia del nostro calcio, solo che purtroppo raschiando il barile, no, però nell'attualità giustamente la Roma avrebbe bisogno di quello, il Milan avrebbe bisogno dei giocatori che appena vanno via fanno gol, e il calcio è fatto anche di questo. Ma destro era la riserva alla Roma, come Cerci era la riserva a Madrid, e sono diventati, secondo i loro allenatori, gli uomini squadra. Io ritengo che la Roma si è incartata non nell'attaccante, la Roma si è incartata. Sì, però dico, destro, le partite che ha risolto quest'anno, sto in radio, faccio entusiasmo, ragazzi, sono persone con cui stiamo facendo delle bellissime foto, ma che non sanno che siamo in diretta, quindi partecipano anche loro. Sì, alla trasmissione, selfie via radio. No, volevo dirti che destro, secondo me, quest'anno comunque il contributo l'ha dato soprattutto in partite come quella teoricamente di oggi, cioè partite teoricamente facili in casa contro squadre di di fascia piccola, e lì ha segnato anche tanto. Quindi oggi, secondo me, l'assenza di Destro si è sentita. Poi chiaramente si era sentita a Roma Empoli. Io però vi devo fermare. Pier, sì. Conosce il palinsesto, cosa c'è alle 18:46? Il traffico. Torniamo subito, Tony. Ed ora non venite a parlarmi di un Claudio Lotito come di un personaggio da suburra che manovra la Lega a suo piacimento. Tutti convocati weekend, non innabizzatevi nelle stronzate, dai! Tutti convocati. Non ci sarà turnover, ci sarà domani la formazione migliore per affrontare il Cesena. E poi dopo penseremo a quella con l'Atalanta, poi penseremo a quella del Dortmund, che non è importante solo per me, ma è importante per tutti, per i tifosi, per la società, per il calcio italiano, perché credo che la Juventus abbia il dovere di portare più avanti possibile l'Italia in Champions. Questo Allegri ieri, tanto è finito il primo tempo, Chievo-Samp 2-0. Vi ho fermato sull'analisi invece della Roma, perché è evidente che da questo pomeriggio e i 90 minuti di questa sera a Cesena sono strettamente legati a doppio filo a quelli che abbiamo visto tra Roma e Parma. Tony, stavi parlando di dove si è incartata la Roma. La Roma si è incartata nel suo gioco, si è incartata che ha avuto bisogno, si è creato un alibi mentale, non soltanto tattico, per la partenza di Gervinho per la Coppa d'Africa, giocatore importante, attenzione, giocatore importante, ma la Roma ha alcuni dei suoi protagonisti che camminano. Io sono severissimo in questo, con quelli bravi, ovviamente con i brocchi no. Quando tu perdi giocatori come Castan, come Benatia e recuperi altri giocatori, però hai un uomo come Rossi che cammina in campo, non te lo puoi permettere. Assente Strootman, assente Pjanic in questo momento, con Nainggolan che deve fare tutto lì in mezzo. Sì, Nainggolan oggi è autore di una grandissima prestazione, era però da solo. Mi dite cosa ne pensate di questo periodo che si apre per la Juventus? Abbiamo sentito prima Allegri dire niente turnover, non pensiamo alla Champions. Magari da questa sera c'è spazio per pensarci un po' di più, Pierre. Dovesse andare come tutti pensiamo. Sì, quello la partita di stasera è lo spartiacque, come dicono quelli bravi, no? Cioè la partita che può di fatto chiudere i giochi del campionato. È un paradosso, perché fino a qualche settimana fa, per esempio per quanto riguarda la Roma, si pensava di poter fare turnover in Europa League per puntare al campionato. Adesso potrebbe esserci addirittura il discorso inverso. La verità è che è una lotta anche per il secondo posto, una lotta importantissima. La mentalità del calcio italiano sta cambiando lentamente rispetto all'Europa League, ma non è ancora del tutto cambiata, quindi io non mi stupirei poi di vedere turnover in Europa League, magari perché bisogna lottare per il secondo o per il terzo posto. Insomma, mi sembra, questo non lo posso escludere, sul discorso che si faceva un attimo là sulla Roma sono d'accordissimo, insomma questa è una squadra che ha avuto anche delle sfortune, perché chiaramente l'incontro di Strootman non si poteva immaginare. Strootman, Castan, ci sono una serie di episodi abbastanza gravorose, detto questo, quindi è venuto a mancare il gioco. Esatto. È venuto a mancare il gioco. Mancando sì. I giocatori, non essendoci un'idea di gioco vera, se non palla lunga per Gervinho, perché la verità è questa. Poi purtroppo c'è voluto la partita di Francesco Totti nel derby, perché il problema è anche di Totti, vabbè, inutile che ci dilunghiamo su Totti, ci mancherebbe altro, perché se, non voglio discutere un fenomeno come Francesco Totti, però Francesco Totti non può giocare 4 partite all'anno, i 2 derby e le 2 partite con la Juventus. Dobbiamo anche dire questo. Ne parlavamo anche all'inizio con Luca Calamai, condizionante sì. Troppo in questo momento per la Roma. Ma tanto sotto tanti punti di vista, non soltanto. Comunque la Roma è un patrimonio, deve capire che non si può giocare soltanto sulla tensione rispetto alla Juventus o rispetto alla Lazio per quanto riguarda il derby, e vi dico che se la Coppa dei Campioni o la Champions League è tossica, l'Europa League è massacrante. Sì, per i muscoli, magari meno per la testa. No, perché innanzitutto non ti dà gli stimoli che ti dà la Champions a livello proprio internazionale per un professionista. In più ti porta a giocare il giovedì in orari a volte difficili e poi devi recuperare subito, in alcuni casi è un torneo sbagliato. Io ho fatto grandi discussioni con il presidente dell'UEFA e spero che in futuro venga cambiato il calendario di questo torneo. Ciao Tony, grazie. Ciao. ciao a voi, ciao, ciao. A tutti. Tony da Macelli, peccato non aver sentito le discussioni di Tony con Michel Platini al telefono, Pier. Esatto, no, stiamo anche scherzando, perché molto banalmente, no, poi magari Platini gli dice che vuole un certo tipo di finale, vorrebbe un certo tipo di finale, meglio di no. No, a parte le battute, secondo me, insomma, c'è anche l'elemento del turno in più, comunque, che non va sottovalutato. Sì, sono due partite in più. Sono due partite in più, tutte in questa fase della stagione, quindi possono pesare, ma ripeto, insomma, non è tanto la distanza in classifica, è proprio la sensazione che la Roma dà di rimanere sempre un po' in confusa. Ma poi credo perché da oggi la Roma abbia mollato, abbiamo un minuto, vediamo se riusciamo a chiudere con Claudio da Roma. Claudio, mi auguro un nuovo titolo. Buonasera. Salve. Claudio, 30 secondi, sia pronto, sintetico. No, volevo dire che Platini non lo sentiremo mai al telefono, perché è una persona intelligente, questi gli hanno l'arroganza del potere. E poi quello che è il governo, questa è la cornice dell'Italia. Un'ultima cosa, sì. A me vedere la Juve è monotono, cioè tenè conto che questi hanno giocatori da 100 milioni. A me oggi ho visto l'Empoli, ieri ho visto il Palermo, quelle sono le partite che mi piace vedere, si vince e si perde, un bel gioco. Poi se ci stanno 8.000 spettatori, certo Empoli non è Torino, non sì, però serve tutto, Claudio, grazie, Claudio da Roma. Pier, buona partita. Ciao ragazzi. Domani dopo il GR delle 14, caro Genta, Pierluigi Pardo, tutti convocati il weekend, invece torna domenica prossima dalle 17. Io ringrazio Claudia Schiattone, autrice di questa puntata, Valeria Bernardi, Paolo Correoni in regia. A domani.